Intervista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Capita nella vita, e a me accade più spesso sullo schermo, di essere bravi insegnanti, ma di non saper scegliere per se stessi la strada giusta. E questa è una frase che denota una grande umanità, in un senso del limite, di quelle che da sole raccontano una prospettiva. Buona giornata da Irene Zerbini. Naturalmente la frase era di Robin Williams, ha colpito tutto il mondo la notizia della sua scomparsa. Perché questa commozione così universale? Perfino le TV asiatiche ieri, quelle di tutti i pianeti, abbiamo percorso alla ricerca di notizie che venivano date con i più strani caratteri. Non c'era stato che veniva risparmiato. Cos'è che rendeva diverso questo attore? Perché tanta commozione ovunque? E noi vorremmo sapere da voi cosa avete identificato in lui. E tra l'altro, in spunti di vista, oggi ci sarà la sua voce, nel senso che Carlo Valli, l'uomo che gli ha sempre dato la voce in Italia, il suo doppiatore, sarà nostro ospite e ce lo racconterà dalla sua prospettiva, dal punto di vista di uno che l'ha conosciuto davvero profondamente. Tutto questo succederà alle 8:30. Dalle 9 noi oggi ci rivolgiamo a te. A te che non hai mai speso 1,20€, 1,30€, 1€, perché a volte ci sono anche gli sconti e le liquidazioni. Per cosa? Per un quotidiano di carta. Ok, hai smesso di farlo. Ce l'hai lì l'euro? Ecco, toccandoti in tasca, lo trovi? Ora prova a pensare. Negli ultimi 7 anni le vendite medie giornaliere dei quotidiani di carta sono diminuite di 1.600.000 copie, questo secondo i dati diffusi dalla Federazione degli Editori. È un fenomeno che non tocca solo l'Italia. Al di là però della digitalizzazione, noi ci siamo chiesti: quando la generazione dei quarantenni, anche oltre, si esaurirà, tra coloro che hanno meno di 30 anni oggi, chi sarà mai disposto a spendere 1€ per comprare un giornale? Percentuali ridicole, ma forse il giorno che l'Italia vince i mondiali, se risuccederà. Quindi noi vogliamo chiedere a voi, a tutta la platea che non li compra, al di là delle abitudini del digital, c'è qualcosa, c'è un tema, una notizia, una firma, forse un intervento, un genere che potrebbe spingervi a fare quell'acquisto? Quindi sposteremo la discussione dall'avvento dell'online proprio ai contenuti, che comunque fanno la parte del leone in un prodotto fatto di parole. Ce n'è uno di questi contenuti che vorreste trovarci su questi quotidiani e che forse ve li farebbe comprare? Un saluto a tutti gli edicolanti a proposito. Comunque segnalateci quello che potrebbe essere questa qualcosa all'800 24 00 24, il numero di telefono per partecipare alla discussione dalle 9:10, dopo il giornale radio delle 9. Prima però, visti da fuori. Buongiorno e benvenuta a un'altra persona che ci fa da benchmark, questa volta nel mondo magrebino, perché lei è una corrispondente straniera algerina. Buongiorno Nasera. Buongiorno a voi. Nasera Ben Ali lavora per il giornale El Watan, un quotidiano indipendente algerino. Nasera, cosa ti ha portato qui in Italia? Diciamo che io mi sono esiliata quasi 20 anni fa a Roma, in Italia, per motivi politici, perché all'epoca in Algeria, parlo dell'inizio degli anni 90, purtroppo siamo stati colpiti di una onda di terrorismo di matrice integralista all'epoca, e molti intellettuali, giornalisti si sono trovati nella mia situazione, quelli che si sono pronunciati contro l'integralismo, e molti di noi hanno dovuto esiliarsi. Pensavamo un esilio provvisorio, pensavamo che era un fenomeno che si sarebbe debellato a breve, purtroppo è durato un decennio intero, e diciamo che il mio esilio, tra virgolette, a Roma è diventato un soggiorno volontario, perché Roma si trova un'ora di aereo da Algeri, e perché l'Italia con l'Algeria, essendo due paesi mediterranei, non mi sono sentita molto spesata, almeno all'inizio, perché ora mi trovo nel Veneto per altri motivi

Terry Gilliam, che l'aveva diretto in due film, l'ha definito un dono degli dei. Era versatile, era trasformista, era un grande improvvisatore, era sempre convincente, aveva questa mimica unica fuori dal comune. Noi oggi ringraziamo la sua voce, e la sua voce in Italia è Carlo Valli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Non l'abbiamo ancora fatto il nome, Robin Williams, naturalmente stiamo parlando di lui. Lei, Carlo Valli, che tra l'altro non solo è il doppiatore italiano di Robin Williams, ma ha vinto nel 95 il Nastro d'Argento come miglior doppiatore, doppiando proprio lui. Sì, nel sì, film era Mrs. Doubtfire. Sì. Mambo per sempre. Come ha fatto? Lì ha dovuto fare sia l'uomo che la donna. Sì, infatti è stato un po' difficile, insomma abbiamo dovuto faticare un po' per trovare una voce femminile che fosse credibile, e poi l'abbiamo trovata, e poi ogni giorno bisognava ritrovarla, perché il film non si doppia in un giorno, e il giorno dopo bisogna ricercare la stessa voce che andava bene il giorno prima, e vabbè, insomma, comunque ce l'abbiamo fatta. Chissà cosa l'ha reso diverso, questo vi stiamo chiedendo stamattina all'800 24 00 24. Così diverso questo attore che ha toccato grandi, piccini, culture di tutto il mondo, nonostante lui fosse bianco americano, e non sempre, non tutti si identificano in questo tipo di personaggio. Sembra oggi, dalla commozione autentica, universale, che veramente avesse saputo muovere qualche corda in più. Carlo Valli, lei l'ha mai incontrato Robin Williams? No, non l'ho mai incontrato, purtroppo non ho mai avuto il piacere e l'onore. So che era venuto una volta in Italia, parecchi anni fa, aveva partecipato al programma di Costanzo, proprio in occasione dell'uscita di Mrs. Doubtfire, e gli avevano fatto vedere un pezzetto del film doppiato e si era complimentato col doppiatore. E naturalmente a me ha fatto molto piacere, solo che io ero a casa mia, non lo sapevo che era venuto in Italia, e l'ho visto da casa mia in televisione. Quindi lei dice non averlo mai incontrato, però ci ha passato ore e ore, però, settimane, sì, giorni, sì, cioè lei comunque... A forza di ascoltarlo, io ho ascoltato la sua voce per parecchie volte, e so come parlava, come respirava, come... E a forza di andare con lui, insomma, io mi sembra quasi di conoscerlo, ecco, mi sembrava di essere... Esatto, non l'ha mai incontrato, ma forse lei, Carlo Valli, una delle persone che più l'ha conosciuto, perché immagino quante volte ne ha scrutato le labbra, il volto, l'increspatura, le rughe. In questi anni aveva notato un cambiamento in lui? Ma nell'ultimo film che ho fatto era un pochino invecchiato. Però non so fino a che punto fosse reale la cosa oppure dovuta per il film. Lui aveva fatto un film con John Travolta che si chiamava Babysitter, dove era una commedia brillante, dove due amici, loro due, donnaioli, testaioli, eccetera, si trovano a dover accompagnare il figlio di uno dei due a un campo di scout, e ne fanno di tutti i colori, insomma. E lui era un pochino invecchiato, però forse lo avevano anche fatto apposta per il film, perché lui diceva infatti che stava diventando vecchio, un po' così. Insomma, lì l'ho trovato un pochino, ecco, un pochino andato, poco. Poi non lo so, io so quello che leggo sui giornali e che sapete tutti voi, che leggete i giornali. Sì, adesso sui giornali naturalmente si... Come dire, si ipotizza, perché io oltre le ipotesi non potrei andare, si ipotizza che alcune problematiche legate alla scarsità di ingaggi, o forse ai debiti, o forse all'alcol, fossero queste le problematiche alla base della sua depressione, ma nessuno saprà mai che demoni stavano muovendo Robin Williams. Sappiamo che a un certo punto, quando decise di farsi curare in qualche modo dalla dipendenza di cocaina, disse: la cocaina è un ottimo modo che hanno inventato gli dei per ricordarci che stiamo facendo troppi soldi. Ma a parte alcuni riferimenti di questo tipo, non sapremo mai cosa l'ha spinto a togliersi la vita. Ma secondo lei, Carlo Valli, per lei doppiatore, qual è stato il ruolo più impegnativo, il film più difficile? difficile da doppiare, perché lui era un che cambiava registro, cambiava tono, cambiava voce, un funambolo l'han definito della voce. Sì, era un vulcano in continua eruzione. Il film più difficile da doppiare per me è stato il primo, che era Good Morning Vietnam, perché proprio lì, anche proprio il pezzo che avete mandato voi, era l'inizio della lunga sparata che fa in radio per tenere allegri i soldati, insomma, e anche lì ne fa 200, imita i vari soldati, quello nella giungla, quello che è stato colto dal gas nervino, quindi è mezzo ubriaco e parla con la vocina, quello poi fa, imita la voce di un giornalista americano, ma tutto di seguito, di fila. Io mi ricordo che l'assistente di studio, che è una ragazza incaricata di tagliare, tra le altre cose, tagliare gli anelli, tagliare a pezzetti i film, perché il film si doppia a pezzetti, non sapeva dove tagliare, perché non c'era una pausa, non prendeva un piatto, e ho dovuto fare delle tirate di pagine intere. E quindi, Carlo Valli, lei doveva passare dal... Come faceva a cambiare registro rimanendo nell'italiano per inseguire questo attore? Vabbè, cioè, insomma, è anche il nostro lavoro di attori, quello. Ieri lei è stato intervistato da The Globalist, la prima testata che l'ha contattata, Carlo, e ha detto, sono sbigottito, sembrava senza parole proprio, sembrava... In effetti è stato un colpo, uno shock, perché io poi sono stato avvertito, insomma, la cosa l'ho saputa di notte, perché un amico mi ha mandato un messaggio di notte, un messaggino al telefono, e quindi erano le 4, si immagini, e quindi la cosa mi ha veramente scioccato, anche perché così all'improvviso uno non sa proprio cosa dire, cosa pensare. Dicono di lui che fosse generoso, sensibile, ricordano spesso in questi giorni il fatto che donò tra l'altro milioni di dollari all'amico Christopher Reeves, perché era quadriplegico, perché intendeva sostenere anche la ricerca, e questo lato di lui in qualche modo emerge anche dalla mimica, dal viso. Lei, Carlo Valli, ho visto delle sue foto, non so se se ne è reso conto, ma assomiglia a Robin Williams, sono anni e anni di frequentazione. Avete gli stessi tratti intorno al naso, alla cioè sta bene la voce di Williams con il suo volto, sta bene. È anche il contrario, è anche la mia voce sul suo. Quello sì. Beh, gliel'hanno riconosciuto tutti. Sì. È chiaro che noi le... Anche se lui era un po' più giovane di me. 8 anni meno di me. Comunque. Complimenti, li porta benissimo. È chiaro che le avremmo chiesto, no? E noi le chiederemo di fare un pezzo specifico, ma dovendo selezionare tra tutto quello che ha doppiato di Robin Williams, cosa... Ma io qui ho un pezzo che è molto carino, e poi carino. E poi si adatta perfettamente alla situazione di questo momento. Ed è un pezzo del finale di Jack. Jack era un film che lui ha fatto dove lui era un ragazzo, che una persona che aveva una di queste malattie molto strane, per cui ogni anno di vita sua passavano 7 anni. Cioè lui il primo anno di vita aveva 7 anni già, e quindi fa l'università, e alla fine fa questo lungo discorso ai ragazzi dell'università, che sono passati 10 anni dalla sua nascita, però lui ne ha 70, e quindi è molto se volete questo è il pezzo che infatti noi vorremmo che ci regalasse. Però rimanga con noi, Carlo, perché vogliamo sentire anche quelli che sono i ricordi di tutti gli ascoltatori. Ci stanno mandando tantissimi sms al 349-238-6666, tutti la amano Carlo Valli, la sua voce simpatica e tenera. Grazie. Poi ci scrivono che se n'è andato il più grande interprete dei sentimenti dell'animo umano, e ci scrivono delle cose molto partecipate per la scomparsa di Robin Williams, perché è un attore che ha fatto credere probabilmente a tantissime persone di poter cambiare non solo la vita ma anche il mondo. Valentina, buongiorno, pronto? Buongiorno signorina. Dica Valentina. Allora niente, anch'io tanto complimenti al doppiatore signor Carlo Valli. E poi sì, sono rimasta un po' piuttosto male, perché dava un senso di solidità, di serenità a quest'attore. Si metteva in simbiosi con le persone più, come potrei dire, più deboli, senza salire in cattedra a parte di nessuno. Anche a me è piaciuto anche molto il film Patch Adams. Benissimo, grazie Valentina. Ci ha telefonato da Ferrara. Cos'è che ha reso quest'attore così diverso? Ci sono le testimonianze addirittura di medici clown che hanno deciso di intraprendere anche in Italia, c'è la storia di Cristina Lenci, la strada del medico che utilizza il sorriso tra i bambini, tra i malati oncologici, dopo aver visto il film in cui Robin Williams è il personaggio che introduce appunto la risoterapia nei primi anni 70, questo film che è rimasto impresso nell'immaginario collettivo. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno Irene, eccoci qua, perdonatemi, sentite rumori strani, mi sto nascondendo dal monsone ticinese, perché purtroppo qui c'è una pioggia fortissima, sono al Festival di Locarno. E tu ti stai nascondendo da questi venti per poterci parlare, raccontaci come è stata accolta naturalmente la notizia della scomparsa di Robin Williams al Festival di Locarno. Sì, potete immaginare come poi la scomparsa di un attore possa cambiare il tono, l'umore, l'avventura di un festival cinematografico. Non è la prima volta che succede, non è la prima volta che succede nemmeno a me, insomma mi è capitato di affrontare questa cosa. Ieri però davvero, come dicevi tu, ho avuto l'impressione della scomparsa non solo di un attore, ma di una persona che abbia avuto un impatto fortissimo sul nostro immaginario proprio collettivo. E immaginati un festival come quello di Locarno, che attrae molti critici giovani, diciamo 25, 30, 35, 40 anni, che sono cresciuti con Mork e Mindy, che hanno cominciato ad andare al cinema, come è capitato a me, con L'attimo fuggente. Insomma, una persona non solo che, come dicevano gli ascoltatori, ha segnato un immaginario di vita per tanti suoi personaggi, ma anche nella formazione televisiva e cinematografica. Tra l'altro la sua parabola si apre con Mork e Mindy, si chiude con un'altra serie televisiva molto meno fortunata che noi stiamo guardando in Italia su Sky Atlantic, The Crazy Ones. Insomma, ha davvero segnato il nostro immaginario cinematografico e televisivo, anche di noi che ci lavoriamo. Marta Cagnola, infatti l'avete riconosciuta, la voce è il critico cinematografico di Radio 24, conduce RadioTube in onda sabato alle 18 e domenica alle 15. Ovviamente tu, Marta, tornerai su questi temi e ti chiederai, visto che ci tornerai nel weekend, cosa esprimere di lui che ancora non è stato detto. Quali sono gli aspetti a cui tu sei più affezionata? Guarda, io sono molto affezionata, ne abbiamo parlato ieri anche con i colleghi, al fatto che molti attori e registi, molti attori e comici siano in realtà dei bravissimi esecutori dei testi scritti dagli sceneggiatori. Lui invece era un'altra cosa, intanto sapeva scegliere benissimo e poi era lui, nessun altro avrebbe potuto recitare in quel modo anche cose scritte dallo stesso autore, dallo stesso sceneggiatore. Lui era diventato Patch Adams, anche se, come dicevi tu, la storia era quella di un altro, peraltro di persone esistenti, era diventato lui. Io poi personalmente, il mio ricordo personale appunto quello dell'attimo fuggente, finché poi in seguito ho odiato perché ha ammantato di retorica in tutti i modi, ma che io ero al liceo, ha cambiato tante cose nella mia vita. Penso che per molti miei coetanei sia così. Ma Bill Murray, Dustin Hoffman all'inizio erano stati considerati per la parte di questo professore, il professor Keating, e poi ci ha provato anche Liam Neeson e si decise che sarebbe stato Robin Williams. Come dici tu, un film che in alcuni passaggi forse è stato ammantato di retorica, eppure è passato, è riuscito a entrare in tutti, a dar questa sensazione che se si voleva salire sulla cattedra, cambiare la prospettiva, tutti tutti saremmo stati capaci in qualche modo di far sentire la nostra voce. Tu pensi quindi anche un film così, con un messaggio così, se vogliamo, semplice, popolare, se interpretato da qualcun altro non avrebbe avuto il successo di pubblico che ha avuto? Sono d'accordo, sarebbe stato diverso, ma pensa solo a Morchi Mindy. Adesso Morchi Mindy, che noi amiamo e adoriamo, i cinesi li hanno soprattutto ovviamente citato i suoi film. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Il più versatile degli attori mai nato, così lo definisce Gianni da Bari, e alcuni scrivono che nessuno in realtà ha capito che il suo sorriso chiedeva un aiuto. Marta Cagnola, ci siamo lasciati su Morchi Mindy. Morchi Mindy, intanto suonano anche le campane, ma insomma mi pare una cosa, festival una di Locarno, cosa di vita. Beh, allora, ieri la prima persona che ha parlato, il primo artista che ha parlato di Robin Williams è stato Jonathan Pryce, che è un attore inglese famosissimo, forse in Italia è più famoso il suo volto del suo nome, ma che aveva condiviso con Robin Williams il barone di Munchausen, quindi Terry Gilliam. Ma quando gli è stato chiesto a caldo un ricordo di Robin Williams, lui si è messo a ridere e ha detto Morchi Mindy. Perché in realtà Morchi Mindy, nella sua ingenuità, perché come spesso accade soprattutto alle cose televisive, quando le guardiamo dopo molti anni hanno sicuramente una freschezza ma un'ingenuità che ci stupisce, ebbene nella sua ingenuità era geniale. Noi tutti bambini abbiamo fatto per anni l'esercizio di muovere le dita nel saluto di Nano Nano. Ed è buffo come appunto ieri anche un grande attore come Jonathan Pryce come prima cosa abbia citato proprio Morchi Mindy. Grazie Marta Cagnola, che si trova al Festival di Locarno. Gianni Canova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Gianni Canova è professore di storia del cinema e filmologia, prorettore con delega alla didattica e preside della IULM, e soprattutto avete imparato a conoscerlo forse su Sky come il cinemaniaco, un critico che sorride raramente. Ora, abbiamo sentito in questa prima parte di trasmissione Carlo Valli, abbiamo sentito i ricordi della genialità del Nano Nano di Morchi Mindy. Lei, Gianni Canova, ha mai insegnato allo IULM partendo e prendendo spunto da un film in cui l'interprete fosse Robin Williams? Ma quel film, lo ricordava Marta, ha segnato un po' tutti, e soprattutto chi come me fa da sempre, da una vita, il mestiere di insegnante, perché prima di fare l'università io l'ho fatto nei licei. Insomma, quel film ha insegnato a noi tutti che insegnare non significa trasmettere delle tecniche, ma contagiare i ragazzi con una passione, aprire delle prospettive, questo è indubbio. Ma tornando a Robin Williams, volevo dire una cosa che mi sta a cuore e che nessuno ha detto, perché adesso sono tutti commossi, ma pochi ricordano che Robin Williams ha vinto un solo Oscar come attore non protagonista, con Will Hunting, Genio Ribelle di Gus Van Sant. E ha avuto solo 4 nomination rispetto almeno a una dozzina di capolavori che lui ha realizzato. Il che vuol dire che forse Hollywood era meno amato, perlomeno nella Hollywood istituzionale, di quanto non meritasse. Ricordo che lui vince il suo unico Oscar nel 98, che è l'anno di Titanic. E quindi è l'unico Titanic, lo ricorderanno gli ascoltatori, fa man bassa, vince tutto quello che poteva vincere, tranne l'Oscar con il miglior attore non protagonista, che va appunto a Robin Williams. E l'altra cosa che mi piaceva ricordare era che tutti in questi giorni lo ricordano giustamente per il suo sorriso, per il suo... I giornali parlano di lui come trasformista, istrione, mattatore, clown, le parole che più ricorrono nei commenti di questi giorni. In realtà Robin Williams era soprattutto un grande attore, capace non soltanto di quella straordinaria versatilità comica e di quel funambolismo della parola che ricordava prima Carlo Valli, ma anche di interpretare dei ruoli drammatici davvero notevolissimi. Io ricordo un piccolo film che si chiama One Hour Photo, dove lui è il commesso di un negozio di fotografia dimesso, vestito con abiti scadenti, del grande magazzino, timido, sempre un po' impacciato, con lo sguardo sempre rivolto verso il basso, con le spalle incurvate in avanti. Ed è veramente un'incarnazione, come dire, un personaggio che diventa un emblema non banale del male di vivere e della solitudine a cui è costretto chi come lui, che vive stampando fotografie, non ha mai incontrato nella vita qualcuno che gli volesse abbastanza bene da fargli una fotografia. Ecco, Robin Williams era straordinario anche nell'interpretare personaggi così, non soltanto nel far ridere, ma anche nel mostrare l'altra faccia, la faccia più malinconica, più triste. E mi piace ricordarlo anche per questi suoi ruoli, che sono sicuramente non secondari. No, questa è veramente una chicca quella che ci hai ricordato adesso. Nessuno gli aveva mai voluto abbastanza bene da fargli una fotografia, quindi ancora una volta un ruolo che strappa una riflessione un po' malinconica. Dicono che avesse il volto per quello, dicono che più che comico era, ricordava, evocava queste grandi sofferenze che attraversano sempre l'animo umano. Eppure era molto noto negli Stati Uniti per le sue abilità da comedian. Lui nasce come stand-up comedian. Sentiamolo. You get kids from Silicon Valley who are very much attuned and very aware, who are going, excuse me. Yes. Questo è sempre lui che cambia voce, naturalmente. And I'm not able to download all of my websites. What are you making there with the Legos? I'm making a small plasma laser. E sta imitando un bambino un po' secchione della Silicon Valley. Occasionally zing its fur and watch how it responds, and I notate this. Where are your parents? In cryogenic stasis. I froze them last year. Dove sono i tuoi genitori? Sono in uno stato criogenico, risponde questo bambino, è sempre Robin Williams naturalmente che fa il dialogo. Li ho congelati infatti l'anno scorso. E qui ancora di più Gianni Canova si capisce, Carlo Valli non ce ne voglia, per averlo mandato senza doppiaggio naturalmente, si capisce però qual era la sua voce, qual era la sua abilità. Sì, dicevo prima, un vero e proprio acrobata funambolo della voce, capace, lo ricordo, Carlo Valli, Good Morning Vietnam è straordinario da questo punto di vista. Lui è anarchico, irriverente, si fa beffe di tutto e di tutti, provoca col suo anticonformismo le gerarchie militari, e la sua voce, le smorfie, i suoi deliri istrionici sono veramente irrefrenabili. Mi piace ricordare anche un altro film che io trovo straordinario vocale, che è Aladdin, dove Robin Williams doppiava il genio della lampada, e le cronache dicono che si era talmente appassionato a questo personaggio, perché credo per un attore sia molto impegnativo dar la voce a un cartone animato, perché significa costruire tutta la personalità attraverso la voce. Dicono che Robin Williams si fosse così appassionato al personaggio da fare delle sedute addirittura di 12, 15, 16 ore ininterrotte di doppiaggio, con questa irruenza, questa straordinaria fluvialità di una voce che saltava continuamente da un tono all'altro, inventava registri, davvero eccezionale, con pochi anni nel cinema contemporaneo. Grazie a Gianni Canova. Concludiamo con Carlo Valli, il doppiatore italiano di Robin Williams, che ci ha promesso un regalo, e questo è tratto da Jack, quindi vorremmo sentirti, Carlo, fare per noi in diretta in radio Robin Williams. E se per caso sarete depressi, alzate lo sguardo al cielo d'estate, con le stelle sparpagliate nella notte vellutata. E quando una stella cadente sfreccia nell'oscurità, rischiarando la notte con il suo bagliore, esprimete un desiderio e pensate a me. Fate che la vostra vita sia spettacolare. Io ci sono riuscito. Carlo, grazie per questo regalo. Carlo Valli, il doppiatore italiano di Robin Williams, che ha vinto nel 1995 il Nastro d'Argento come miglior doppiatore, doppiando proprio Williams nel film Doubtfire, Mammo per sempre. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie. Sì. Osate cambiare, cercate nuove strade. E siamo grati a Valli, ci scrive Antonella al 349-238-6666. Carlo Valli, che è stato nostro ospite, attraverso le sfumature della voce ci ha fatto conoscere il grande Williams. Continuano a pervenire a questo numero di SMS le segnalazioni. C'è chi consiglia di vedere il film L'Uomo Bicentenario, ci dice Gianni, che scrive da Bari, che è uno dei più belli, forse il più bello, con Robin Williams. Altri invece tendono, come dire, a sminuire il ruolo. Lui era semplicemente l'attore, erano i ruoli che si sono conquistati fama e grandezza. Quanti Oscar, anche se ne hai vinto solo uno da non protagonista, ti sei aggiudicato nei nostri cuori, riposa in pace. Epitaffi a Radio 24, inevitabilmente oggi. Noi cambiamo pagina, però vi abbiamo chiesto, ci siamo rivolti a voi in apertura di trasmissione, voi che non spendete 1,20 euro, 1,30 euro, 1,40 euro, dipende dalle giornate, per un quotidiano cartaceo. Ecco, c'è qualcosa che potrebbe spingervi a farlo? Anche solo per un giorno. Provate a pensarci. E ditecelo all'800 24 00 24. Crollano le vendite dei quotidiani, in 7 anni si sono perse 1.600.000 copie. I fattori sono molteplici e tra poco ne discuteremo, ma al di là della digitalizzazione, del cambiamento delle abitudini, se noi ci soffermiamo sui contenuti, cos'è che potrebbe spingervi a comprare un giornale in edicola, si diceva una volta, oggi va detto anche al supermercato? Cosa ci vorreste trovare? 800 24 00 24. Buongiorno e benvenuto a Giorgio Gandola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei fa il direttore di giornale di carta, dico bene? Sì, giornale di carta, ma devo dire anche di un sito web e delle news di una televisione locale, per cui una visione abbastanza così a 360 gradi delle problematiche di oggi. Ma Giorgio Gandola, direttore dell'Eco di Bergamo, farà fatica a spiegare un giorno ai suoi nipoti che lavoro faceva il nonno? Beh, forse sì e forse no, e devo dire che sono nato col giornale di carta, ho avuto la fortuna di avere i calzoni corti quando Montanelli insegnava giornalismo in tipografia al giornale, e beh, devo dire che comunque anche l'informazione digitale deve avere i fondamentali, come una buona squadra di calcio, se no rischia di essere informazione non certificata, e quindi vale tutto, ecco, a quel punto. Senta, per i quotidiani dal 2007 in poi è iniziato un declino, io sto parlando dell'Italia, ma è un fenomeno assolutamente transnazionale, generale, ma con diverse declinazioni. Però è iniziata questa discesa della diffusione che si è andata ampliando e ha raggiunto punte molto elevate. Pensi, nel 2011 -6,8%, un altro calo nel 2012 -8,1%, e quindi è un calo che si è un pochino attenuato nel 2013, ma è un'evoluzione negativa innegabile. Poi c'è ancora una differenza tra nord e sud, perfino sulla vendita dei quotidiani, perché a fronte di una media di copie vendute sull'intero territorio nazionale di 66 copie ogni 1000 abitanti, caro direttore, nelle regioni del sud la stessa media è stata di 42, mentre al nord c'è una copia ogni 11 abitanti. È chiaro che questa differenza non è riempita tanto e soltanto dai giornali nazionali, ma dai giornali anche a diffusione locale o regionale come il suo. Il suo si chiama chiama L'Eco di Bergamo. Di che salute gode secondo lei? Ma devo dire, nonostante le tempeste e le percentuali che ha ricordato giustamente lei questa mattina, di buona salute godiamo, di buona salute, anche perché il radicamento sul territorio è fortissimo. L'Eco di Bergamo, ma credo di poter parlare anche per i grandi giornali locali di tradizione, come la Gazzetta di Parma piuttosto che il Giornale di Vicenza o l'Arena di Verona o il Giornale di Brescia, la Provincia di Como, cioè sono giornali vicinissimi al territorio, con un grandissimo radicamento, e hanno ancora dei lettori molto molto affezionati, anche perché la nostra qualità, se vogliamo, è quella di guardare la realtà col microscopio, quindi stare dentro le notizie locali e stare vicino al lettore, mentre il giornale nazionale ovviamente ha necessità di guardare la realtà con il telescopio. Io ho fatto l'inviato per tanti anni, andavo in un posto, raccontavo e tornavo indietro, invece il giornale locale è lì tutte le mattine a raccontare il territorio. Quindi, ecco, e lei manda fuori i giornalisti su ogni singola storia, cioè anche l'utilizzo delle fonti uniformi come le agenzie di stampa in un giornale locale, sì, offrono uno spunto, ma poi alla fine dovete portare a casa, certo, la voce, la dichiarazione del protagonista. È sicuro, anche perché spesso il lettore di un giornale locale conosce quello che è accaduto, conosce gli avvenimenti addirittura meglio del giornalista che li racconta, per cui dobbiamo essere assolutamente precisi, non si può sbagliare nulla. Sbagliate gli orari delle farmacie, c'è certo, qualcuno che lo verificherà comunque. Esatto, e che quindi scriverà, manderà una mail e ci insulterà, per cui bisogna essere assolutamente precisi. E questo è chiaro che non è semplicissimo. Ma lei diceva anche un web, quanto è consultato il web rispetto al giornale di carta? Beh, devo dire che è un'ascesa esponenziale ed è uno dei motivi per i quali il giornale di carta segna il passo. Il nostro web funziona, diciamo, arriva a punte di 200.000 contatti unici al giorno, e devo dire che in occasione di alcuni avvenimenti chiave come il ballottaggio quest'anno per il sindaco di Bergamo, questo eletto Giorgio Gori, quindi personaggio nazionale, piuttosto che l'arresto del presunto assassino di Iara, hanno portato a punte pazzesche. È chiaro che chi si accontenta di queste notizie senza aver bisogno di approfondimenti, va sul web e non compra il giornale. Grazie. Rispetto al 2010, anche il Trentino ha addirittura aumentato gli acquisti dei quotidiani, cioè c'è una tendenza, una controtendenza rispetto alle copie che si perdono, che riguarda i giornali locali, non dappertutto, però ci sono alcune regioni italiane in cui aumentano le vendite di quotidiani, e giornali di settore che danno un servizio diverso dal generalista. Buongiorno Isabella Bufacchi. Buongiorno a tutti. In studio a Roma con noi il vice caporedattore del Sole 24 Ore. E c'è qualcuno, come hai sentito già dall'avvio di questa discussione, che parla di autorevolezza come segreto per mantenere, in un'epoca completamente digitale in cui informarsi su internet è particolarmente facile e soprattutto poco costoso, mantenere il passo, cioè l'autorevolezza del giornale e della fonte. Tu Isabella, che tra l'altro sei responsabile del web, anche sei molto coinvolta, diciamo così, in internet e nel giornale digitale del Sole 24 Ore, e dove vedi la differenza tra giornale cartaceo e quello che invece si va a fare sul web? Quali sono le caratteristiche che devono segnare i due prodotti? Beh, innanzitutto vorrei sottolineare, come hai fatto tu, l'autorevolezza delle fonti. Cioè, secondo me, per quanto riguarda così le vendite di un giornale e il rapporto tra il lettore e i giornalisti e l'informazione, è quello che il lettore deve dare anche lui molta importanza alle fonti. Cioè, io sono una professionista dell'informazione e quindi per me le fonti sono fondamentali. Cioè, io non scrivo nei miei articoli un qualsiasi numero, una qualsiasi notizia che non sia stata verificata da me con fonti attendibili. Questo secondo me dovrebbe fare anche il lettore, anche il lettore del digitale, del web. Ecco, quando tu mi chiedi che differenza c'è, possiamo dire che c'è una differenza sull'immediatezza dell'informazione, cioè il web è chiaro che mi dà la possibilità di essere informato all'istante, in tempo reale, mentre sulla carta è chiaro che c'è il tempo della tipografia e quindi mi aspetto un diverso modo di trattare la notizia, mentre invece per quanto riguarda l'autorevolezza, ecco, secondo me il lettore deve sempre stare attento e cercare proprio un'informazione con fonti certe, ecco, questo è, quindi il web ti dà molte notizie, però si legge di tutto, ecco, io per esempio non leggo tutto, leggo solo quando sono certa della fonte. Il Sole 24 Ore, tra l'altro, visto che stiamo parlando di erosione dei giornali di carta, è il primo giornale digitale, secondo i dati ADS è il primo con 183.000 copie 2.0, perché al di là dell'autorevolezza a cui hai fatto riferimento tu, probabilmente perché vi si trova un prodotto diverso. Sì, beh, parlando di contenuti. Certo, beh, il digitale, io sto sperimentando io stessa proprio in un nuovo progetto del Sole 24 Ore, un quotidiano digitale. Devo dire che ha delle potenzialità enormi, perché oltre alla carta, un digitale mi consente di sfruttare la multimedialità, cioè io posso mettere dentro un quotidiano non cartaceo, digitale, delle tabelle interattive, per esempio. Io che uso sempre molto sulla carta le tabelle, mi diverte il fatto che invece in un quotidiano digitale il mio lettore può cliccare su una tabella interattiva, muovere il cursore, andarsi a cercare lui i dati nelle mie tabelle. Un'altra cosa molto interessante è quello dell'utilizzo dei video. Io posso in un quotidiano digitale inserire addirittura un piccolo telegiornale o posso fare un approfondimento con video, usare le immagini. Immagini come una fotogallery, le puoi sfogliare. Ecco, devo dire che la potenzialità di un quotidiano digitale è enorme e a me tra l'altro mi entusiasma entrare in questo mondo, però la base del quotidiano, cioè di dare informazioni autorevoli, di selezionare le notizie, di dare una gerarchia, di verificare le fonti, di dare approfondimenti, la base è uguale a quello della carta, secondo me, e a quello del digitale. E abbiamo raccolto per ora dei pareri di addetti ai lavori, tra poco ne avremo tantissime. Con noi c'è anche l'organizzatrice del Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia, Arianna Ciccone, buongiorno. Buongiorno a voi. E tra poco ti daremo la parola, però vogliamo sentire gli ascoltatori perché? Perché abbiamo chiesto proprio a voi, cioè a coloro che il giornale di carta non lo comprano più, cosa ci vorreste trovare? C'è qualcosa, c'è un annuncio di un contenuto, al di là delle abitudini a usare il tablet, a usare lo smartphone, è ovvio che tutti ci siamo spostati un po' di lì, ma c'è qualcosa che vi farebbe dire, oggi lo compro? Marco Luca, pronto, buongiorno. Buongiorno. Quanti anni ha Marco? 26. 26, quindi ci stiamo rivolgendo proprio a coloro che ne hanno meno di 30, ci siamo detti uno che ne ha meno di 30, lei sappiamo che è uno scout, è un appassionato di giornalismo, cura la rubrica Rimpara l'arte in una rivista scoutistica che si chiama Camminiamo Insieme. Esattamente. Ma posso darti del tu, Marco? Ma certo, ci mancherebbe. Marco, tu i giornali, un quotidiano, no? Quando lo compri? Immagino non tutti i giorni. Ma no, in realtà quasi nessuno dei giorni. Quasi nessuno. Praticamente sono online. Ecco, quel quasi, l'ultima volta che l'hai comprato, non ti ricordi perché? Cosa ti ha spinto a farlo? Beh, sono alcuni eventi, diciamo, storici fondamentali. Alla fine io non leggo online perché preferisco online, ma per varie ragioni, per esempio che da bravo studente universitario 1,20 euro al giorno fanno la differenza. Beh, insomma, è un elemento fondamentale anche quello del costo, chiaro. Però ammetto che leggere su carta a me dà molto più gusto che leggere su monitor, anche proprio a livello tattile. E quindi diciamo che ogni tanto, non lo so, le lezioni di un papa, l'ultimo numero di un giornale, ci scappa l'acquisto, diciamo. Scappa l'acquisto e magari ritagli anche l'articolo e lo tieni? Ma sì, perché no? Visto che hai parlato della differenza tattile, perché forse questa è la cosa che si può fare, attaccare sul muro quell'articolo lì, questa è la differenza. Tu scrivi in questa rivista Camminiamo Insieme, è una rivista che ha un formato anche cartaceo o è solo digitale? È fondamentalmente solo cartaceo, siamo digitali da pochissimo, da pochi mesi. Ah, è solo cartacea? Nonostante sì. Si rivolga ai ragazzi? Sì, sì, sì, beh, perché essendo i ragazzi iscritti all'associazione AGESCI dello scoutistica, praticamente gli viene recapitata direttamente a casa, quindi non abbiamo in realtà il problema di un quotidiano di dover essere acquistata. E per il recapito a domicilio, allora avete scelto dal punto di vista strategico editoriale meglio il recapito, nonostante le spese postali, che l'invio, per esempio, in PDF? Ma sì, è una questione storica, c'è sempre stato il recapito e adesso perdura, poi ultimamente ci sono anche le edizioni PDF scaricabili sul sito, quindi in realtà ci stiamo leggermente trasformando, poi è anche vero che non essendo proprio noi un quotidiano, noi abbiamo la rivista viene pagata con i censimenti dei ragazzi, quindi ognuno quando si associa alla GESCI sta pagando l'abbonamento alla rivista. A quanti ragazzi vi rivolgete più o meno? Circa 38.000 numeri noi stampiamo. E tu hai notato nelle abitudini sì, abbiamo capito a cosa ti riferissi, ma hai notato nelle abitudini di lettura dei tuoi coetanei e anche dei ragazzi più giovani la preferenza verso il tablet, il digitale, l'app, ciò che si può scaricare? Sì, senza dubbio. Secondo te perché? Tu hai citato un elemento fondamentale, non si può saltare, chiaro, quello del costo, no? Quello della gratuità, sì. In questo caso. E c'è altro? Ma anche la rapidità, sicuramente. Perché in un mondo in cui si sta sempre a correre da una parte all'altra con il tablet in mano, attaccati a un computer, in giro per le biblioteche, avere un giornale proprio lì davanti senza nemmeno doversi muovere di un millimetro in agenda fa piacere, diciamo. Grazie a Marco. Buongiorno a Mario, buongiorno, 800 24 00 24. Dica Mario, lei è un addetto ai lavori o è un lettore? No, un lettore, sì. Io fino a poco tempo fa compravo 4 quotidiani la settimana, è cresciuto il costo dei quotidiani, ma è cresciuta soprattutto la quantità di carta che viene data. La domenica una testata di larga diffusione con 1,40 euro dal quotidiano, 2 inserti, tantissime pagine di cui alla fine il lettore ne legge 2-3 di tutte le altre, ma neanche la metà delle altre si leggono. Quindi a lei non fa piacere, non è un incentivo all'acquisto questo? Assolutamente, mettere tantissime pagine su argomenti che non mi interessano, che potrebbero anche interessarmi la salute, ma una volta all'anno potrebbe interessarmi leggere qualcosa sulla salute, mi si obbliga a un costo più alto, è un forte disincentivo secondo me, perché alla fine uno legge l'intervista del personaggio, l'articolo di fondo, ma tutto il resto, i titoli sono gli stessi che si vedono in internet, che si ascoltano alla radio. Cioè lei ha la sensazione, giornali, quando si prende in mano un quotidiano, di sapere già, cioè la notizia, il fatto, molti dei fatti lei già li conosce, vorrebbe vedere qualcosa di più specifico, di più approfondito, un'altra angolatura. Autorevoli commenti. Autorevolezza, quindi, quello che lei ricerca. Poche pagine, ha un costo... costo psicologico, dove i quotidiani hanno sbagliato, era sicuramente l'euro. L'euro uno glielo dà volentieri, salire sopra quella soglia secondo me è stato un grosso errore. 1 euro e i quotidiani venderebbero di più. Grazie per questi suggerimenti a Mario. Non leggo quasi mai quotidiani cartacei, ci segnalano ancora gli ascoltatori al 349-238-6666. Anzi, non sapevo avessero approfondimenti diversi rispetto all'online, nella stessa testata, ci dice qualcuno. Ci segnalano che una cosa che li farebbe comprare il quotidiano, stiamo sempre parlando del cartaceo naturalmente, sarebbero le notizie di esteri. Vorrei avere più approfondimenti storici ed economici, ma non scritti addetti per addetti, quindi è una segnalazione che si rifà anche al linguaggio che andrebbe cambiato forse. E ancora una rubrica di scrittori emergenti, racconti di scrittori emergenti, questo ce lo dice Alessandro, ci spingerebbe a comprare. A scuola non si leggono i giornali e questa è una delle cause della non lettura dei quotidiani, bisognerebbe dare l'esempio a scuola. Francesco, pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno. Salve, io ho 14 anni e ogni volta che apro un giornale mi scoraggio, praticamente perché in un articolo di giornale normale, quindi uno non so, sul Medio Oriente o sulla politica europea o italiana, si raccontano sempre vicende che non sono comprensibili a pieno perché si citano sempre cose scritte o dette prima da altri senza spiegarle bene, cioè come se i giornalisti scrivessero, diciamo, o per altri giornalisti oppure per persone che leggono già da sempre il giornale. E non so, io faccio fatica perché cioè, magari in un articolo sulla politica italiana dicono siamo all'emendamento numero 5 per la riforma di Renzi riguardo al comma 12 dell'articolo 273, cioè non capisco nulla perché è un po', non so, complicato per me, perché non ci sono proprio spiegazioni che magari, come aveva detto quell'Alessandro nell'SMS, una sezione apposta per i lettori emergenti, una sezione giovani nei giornali in cui i giornalisti magari prendono più tempo per spiegare le cose. E se ci fosse, tu lo compreresti il quotidiano, se tu avessi l'euro in tasca, per dire? Beh, credo di sì, nel senso che io quando sono a casa a volte guardo i notiziari dove questa cosa c'è, nel senso che i giornalisti, quelli che fanno i servizi, possono spiegare molto approfonditamente le cose, consentendo di capire anche a uno come me. Quindi non è un disinteresse per il contenuto, ma è proprio è il fatto che è come se il discorso fosse rivolto a qualcuno e passasse sopra la tua testa. Esatto, e poi a volte anche il contenuto, nel senso gli articoli sulla politica italiana non li leggo neanche perché dicono sempre allora, eravamo a questo punto, siamo ancora a questo punto, però Beppe Grillo ha detto che, Renzi ha detto che e Berlusconi ha detto che, e cioè alla fine sono quasi un po' inconcludenti, non hanno né inizio né fine, ecco. Grazie per questa amarezza testimoniata, beh sono testimonianze devo dire da brivido. Il direttore di giornale è ancora con noi, Giorgio? Sì, pronto? È interessante. Molto formidabile, infatti quasi da prendere appunti. Io li sto prendendo, quindi i giornalisti un po' si parlano sopra la loro testa, altrimenti ci sarebbero tanti potenziali lettori che andrebbero anche a spenderlo quell'euro e 20. Certo, beh, l'autoreferenzialità è sempre stato un grandissimo difetto dei giornalisti e quello è veramente, possiamo dire, touché. Anche perché essere chiari e trasmettere informazioni ed emozioni non è così semplice come talvolta noi pensiamo. Informazione ed emozioni, hai detto? Sì, informazioni ed emozioni, anche perché poi il giornale non è soltanto un elenco di fatti, ma e questo mi riferisco ovviamente anche ai giornali locali. Deve essere anche un veicolo di emozioni, noi non possiamo soltanto raccontare un territorio perché ci siamo da più di un secolo, ma dobbiamo voler bene a questo territorio perché il lettore poi in definitiva ce lo chiede di rappresentarlo e di alzare la voce quando è necessario in difesa del territorio stesso, e questo significa anche essere capaci di emozionare un pochino. Le prime lettore. 12 pagine dei giornali, qui citano il Corriere in particolare in questo messaggio, messaggio, in altri messaggi più o meno la sostanza è la stessa, sono inutili. Il riferimento è ancora una volta all'eccesso di spazio dato alla politica. 349-238-6666 per i messaggi SMS, oppure cosa vi farebbe comprare un giornale? Ci stiamo rivolgendo a chi non lo compra di fatto, 800-24-00-24, e soprattutto a quelli sotto i 30 anni, perché forse sono l'utenza più interessante da raggiungere. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Cosa vi spingerebbe a comprare un giornale? Attenzione, abbiamo preso appunti, un euro deve costare, non deve fare questi articoli, quando c'è la stesura degli articoli bisogna fare attenzione a dare per scontato l'acquisita conoscenza dei termini di cui si parla, ma non solo dei termini, del momento, del processo in cui siamo, come ci ha segnalato il nostro ascoltatore 14enne, perché poi se no è come allacciarsi un discorso a metà, cioè non si riesce mai a capire a che puntata siamo arrivati, e sarebbe importante fermarsi e raccontare da capo. E ancora vorremmo vederci degli scritti di giornalisti emergenti, approfondimenti su quello che arriva dall'estero e non solo politica estera. 349-238-6666, forse questo è un riferimento alle storie, al racconto, non solo politica ma anche come si vive l'economia. Isabella Bufacchi, è molto interessante sentire, sì, quelli che sono gli stimoli degli ascoltatori. Sì, decisamente devo dire che quando scrivo i miei articoli, io scrivo di mercati finanziari e di argomenti sempre molto complessi, faccio un grande sforzo per cercare di spiegare in maniera semplice concetti complessi e anche le terminologie. Devo però dire che al tempo stesso, pur volendo essere molto chiari, un giornalista tenta anche e non annoiare il lettore, e allora bisogna sempre pensare a chi legge l'articolo. Alle volte gli articoli invece vengono letti, almeno nel mio caso, da chi segue i mercati, e quindi troppe spiegazioni renderebbero poi l'articolo illeggibile, noioso, ridondante. Quindi anche sul Sole 24 Ore stiamo cercando di dare un'informazione con diversi articoli, cioè ci sono gli articoli tipo la bussola per il risparmiatore, le parole chiave, delle schede con domande e risposte per aiutare il lettore, e poi però ci togliamo anche un po' così il gusto di scrivere degli articoli un po' più tecnici per altri tipi di lettori. Quindi in un giornale si può trovare un po' di tutto, ecco. Infatti c'è la sensazione che essere così in crisi siano soprattutto i giornali generalisti, non tanto quelli che si rivolgono, abbiamo sentito anche col direttore del giornale L'Eco di Bergamo, a un target particolare. E il Sole 24 Ore è il terzo quotidiano nazionale per diffusione. E visto che c'è questa controtendenza con le copie che salgono del 24,1%, mi sono chiesta, può essere anche legato al fatto che è un giornale che si fotocopia? Si può essere, perché è il più fotocopiato in Italia. Beh, questo però poi ci riporta la carta. Sì, noi stiamo parlando di carta naturalmente. Infatti, e quindi dal digitale alla carta, cioè dal digitale puoi in effetti tornare alla carta. Però ecco. No, ma è l'informazione di un certo tipo, nel senso, questo è proprio un servizio. Cos'è che si fotocopia? Si fotocopia quella cosa che poi ti servirà quando devi espletare da commercialista, da utente, eccetera, quella certa incombenza. No? Quindi ritorniamo alla natura diversificata. Ci sembra di capire così un po' dagli interventi che arrivano, questa è la sintesi che faccio io, ma dimmi se anche tu hai colto la stessa richiesta, una richiesta di diversificazione, Isabella. Sì, devo anche dire, mi ha molto colpito l'intervento sulle troppe pagine, soprattutto per i quotidiani che escono la domenica, quando un ascoltatore ha detto, ma insomma ci date troppe pagine, troppo da leggere. Quello mi ha dato l'idea effettivamente anche un po' dell'eccesso dell'informazione. Cioè io credo che noi giornalisti siamo molto consapevoli del fatto che ci stiamo rivolgendo a dei lettori che comunque sono già molto informati e secondo me sono anche un po' frastornati dall'informazione. Cioè c'è veramente tanta informazione e poi tante informazioni anche involontariamente che noi dobbiamo assorbire ogni giorno. Per esempio, mi viene in mente il manuale di istruzione di un forno a microonde. Cioè se uno si compra un forno a microonde, quel giorno si è dovuto leggere quel manuale, che è una cosa semplicissima, stare in cucina e magari cucinare, non so, un pollo con le patate, però in realtà poi hai un forno a microonde. Beh, dopo tutta quell'informazione, di tutti questi manuali di istruzioni, tutta questa tecnologia così complessa che dobbiamo seguire, secondo me c'è un po' di stanchezza, ecco, anche nell'essere informati. E poi internet, ricordiamolo, ci volendo, con un click noi abbiamo informazioni da tutto il mondo. Cioè io seguo i mercati. Infatti io il manuale del forno a microonde lo guardo col tutorial. Non leggo il manuale. Comunque vabbè, al di là di questo, la lettura per alcuni è un piacere, per altri manca l'anima del giornalista, ci dicono al 349-238-6666. Antonio, buongiorno, adesso questo ascoltatore arriva in trasmissione e ci bacchetta e a noi questo piace. Antonio, pronto? Buongiorno, buongiorno. Senta, io sì, non compro più i giornali da tanto tempo. Anche perché ci sono tutti i giornalisti, che il più giovane ha 75 anni, i quali ci raccontano queste storie, sempre le stesse, sempre ripetizioni delle loro idee, così, fatte da persone che non hanno un futuro, perché l'Italia ha bisogno di gente che vive i problemi sulla loro pelle, non di gente che viva con alle spalle un sacco di cose trattate da Zecca Garbugli. Abbiamo bisogno di gente che abbia 40 anni, 45 anni, che faccia i redazionali con le cose lì. Che bell'intervento che ha fatto Antonio. Antonio, bello questo intervento sul futuro, grazie. Grazie, ci chiamava da Monza Arianna Ciccone. Lei che al futuro del giornalismo guardi ogni anno con il tuo organizzare il Festival Internazionale di Giornalismo a Perugia. Immagino poco di questi interventi sia proprio materia nuova, ma c'è qualcosa che hai sentito stamattina che ti ha colpito, a cui non avevi pensato? No, che non avevo pensato, no, forse magari delle conferme sia da il caporedattore del Sole 24 Ore che dal direttore del giornale locale L'Eco di Bergamo, ma soprattutto la testimonianza del ragazzo di 14 anni che secondo me ha sintetizzato perfettamente la crisi del giornalismo italiano. Cioè sintetizziamo per chi si fosse fosse sintonizzato da poco. Esatto, quali aspetti? Sì. Spieghiamolo, quello che chiedeva. Cioè l'autoreferenzialità del giornalismo e dei giornalisti italiani, soprattutto quelli di carta, sono tremendi, e dall'altra parte il giornalismo, la politica che domina le pagine dei giornali di carta in modo anche, se vogliamo, superficiale, poi non è un modo vero per parlare o costruttivo per parlare di politica e di agenda politica in un paese. Quindi questo secondo me lui ha fotografato perfettamente, stiamo parlando di un ragazzo di 14 anni, quindi il futuro dei giornali di carta sarebbe nelle mani di questa generazione. Io onestamente, come sai, non credo che ci sia un futuro nel giornale di carta. C'è una frase bellissima. Tu lo compri? Tu che organizzi? Non lo compro, non lo compro più, non li compro più. Io sono cresciuta con la carta e leggevo tantissimi quotidiani ogni giorno. Oggi diciamo la mia esperienza è totalmente, profondamente cambiata, la mia esperienza di lettura e di informazione. Mi sento molto più informata pur non leggendo i giornali di carta. Non leggo neanche il prodotto interamente in versione digitale, questo anche è importante. Cioè tu vai sul digitale ma non per comprare o leggere il giornale intero, no, la testata. Bravissimo, non mi interessa più, esatto, leggere tutto il giornale, il pacchetto, tutta una testata. Non ti interessa più. Esatto, il prodotto giornale in sé non mi interessa più, non credo che mi possa servire per essere un cittadino informato, un cittadino con degli strumenti per capire il proprio contesto anche politico. E questo sì, sicuramente la spallata l'ha data il web, l'hanno data soprattutto i social network e forse hanno fatto emergere una debolezza, una fragilità contenutistica dei giornali tradizionali che forse c'è sempre stata, solo che non avevamo gli strumenti per individuarla, per capirla. Cioè forse tu dici adesso il re è nudo, ma non è che prima fosse diverso. Sì, diciamo che sicuramente c'erano degli aspetti legati alla qualità che forse oggi sono andati diciamo impoverendosi. Però io ti faccio un esempio senza fare nomi, perché poi mi dispiace che non ci sia la persona che si può difendere da queste critiche. Però io notavo negli ultime settimane un cittadino, io li chiamo netizen, noi cittadini che abitano la rete, che su Twitter ha beccato per due volte un noto giornalista di una firma importante, di un giornale molto importante italiano, che ha letteralmente copiato, incollato, comunque si è diciamo così ispirato a altri giornali stranieri per il suo articolo, gliel'ha fatto notare, ha chiesto spiegazioni alla testata, ha chiesto spiegazioni all'autore, al direttore, non ha ricevuto nessuna risposta. Ecco, questo per esempio è un tipico atteggiamento sbagliato che fa male alla testata, fa male alla credibilità del giornale, fa male alla reputazione. Però c'è la possibilità di effettuare direttamente da cittadini questa sorveglianza. Ora, bravissima, tu hai citato questa tua propensione, inclinazione a leggere, leggi tante testate anche all'estero, altrimenti non potresti organizzare il Festival Internazionale di Perugia. Non mi hai detto però se sei anche una di quelle che poi fa i commenti in digitale, perché penso quello sia uno degli elementi anche che spinge sul digitale. Assolutamente, questo diciamo che è una delle cose che non mi fa più appassionare alla carta, cioè la natura social della notizia è quello che mi appassiona di più, quindi a me piace leggere una notizia e poterla poi condividere e commentare con le persone che frequento in rete, tra Facebook e Twitter o nel sito stesso dove viene pubblicato l'articolo, il post, l'approfondimento. Ma vuoi anche risparmiare? Cioè l'elemento economico? No, il punto è che io sarei disposta a pagare per cose di alta qualità e di approfondimento. Quello che adesso mi viene sottoposto come prodotto giornale non mi interessa più, secondo me non vale la pena investirci. Invece, per dirti, io sono disposta, e l'ho fatto, a sostenere delle iniziative giornalistiche attraverso il crowdfunding. Cioè io ho sostenuto dei crowdfunding giornalistici italiani, è successo con tre blogger e giornalisti, e tra l'altro una persona l'ha anche rifatto, è Andrea Marinelli, è un blogger che adesso ha spostato il suo blog sul Corriere della Sera, e lui ne ha fatti due, io ho sostenuto tutti e due perché il primo mi era molto piaciuto, quindi il risultato poi di quella raccolta si è concretizzato in un racconto, un approfondimento giornalistico che mi ha soddisfatto, e quindi ho sostenuto il secondo progetto. Ho sostenuto il progetto di Barbara Schiavulli a Occhi Aperti, che è una piattaforma proprio di crowdfunding giornalistico appoggiata dal giornale. E in questo caso vedi però la testata tradizionale cartacea che si associa, si abbina a delle iniziative del genere, ho sostenuto che prima nascono sulla rete e poi vengono assorbite. Anche questo è un aspetto interessante, stiamo un po' fotografando alcune tendenze insieme a Arianna Cicconi, Isabella Bufacchi e tutti voi. Vi abbiamo chiesto c'è qualcosa che vi farebbe spendere quell'euro, perché c'è molto la sensazione, chiaro, ci hanno segnalato gli studenti universitari e l'elemento costo disincentiva l'acquisto del giornale quando puoi acquisire o avere informazioni in rete gratuitamente, ma non è solo quello. Infatti, come ha detto la nostra ospite, poi i soldi si spendono per altre cose, perché il crowdfunding, l'acquisto di giornali in digitale, per esempio, gli abbonamenti in digitale, sembra quasi che si sarebbe anche disposti a spendere se sui giornali si trovasse cosa? Questo lo stiamo chiedendo a voi, le vostre risposte, chiarezza, correttezza, obiettività, ma soprattutto l'informazione su quanto avviene all'estero, e questo ce lo segnalano tantissimi. E io prediligo la radio, benissimo, chiaro, chi ci sta ascoltando via radio ha tante volte questo tipo di propensione, di preferenza, accertata anche dai dati. Se ci fossero giornalisti e giornali più obiettivi e rinunciassero ai fondi pubblici, magari li comprerei. C'è chi ci chiede ancora una volta emozioni, però i giornalisti devono essere bravi a filtrarle, a raccontarle. L'autorevolezza è il marchio DOC. Ci sono troppe, guardate quante infatti maneggiano, diciamo, normalmente quelli che sono gli strumenti dei giornalisti. C'è chi ci dice è troppo simile all'ADN Cronos, ci vuole l'opinione anche se filtrata dall'autorevolezza. E ancora Roberto che ci scrive da Pordenone dice che assomiglia troppo all'agenzia ANSA, un quotidiano, non c'è più il pensiero del giornalista professionista. È uno stimolo che ci è arrivato naturalmente coniugato secondo il pensiero, le parole di ognuno, ma diverse volte. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E tra 10 minuti daremo la linea al GR, non prima però di aver sentito da voi cosa vi potrebbe spingere a comprare un quotidiano, voi che non lo comprate naturalmente, e i numeri delle copie digitali comunque crescono nel dettaglio delle singole realtà editoriali nel mese di giugno, ancora sole 24 ore, primo quotidiano in Italia copie 2.0, per il secondo mese consecutivo le copie digitali, questi sono i dati ADS che ho sotto gli occhi, hanno superato le vendite cartacee, e il Corriere della Sera è sul secondo gradino del podio con 88.000 copie di media ogni giorno, in calo dello 0,9%. Il terzo player in classifica, La Repubblica, ha subito la perdita maggiore, meno 4%, scendendo a quota 67.202. Per quel che riguarda invece le copie cartacee, la classifica è leggermente diversa, perché è il quotidiano di Via Solferino, cioè il Corriere, il primo in Italia con 411.000 copie, meno 8,8 rispetto a maggio. Repubblica è andata meglio su questo fronte, alle spalle del Corriere della Sera, perché ha registrato un incremento di più 1,9 rispetto a maggio, seguita dal Sole 24 Ore, in sostanziale stabilità con 368.000 copie. Ora ho dato questi dati per chi ce li chiede via SMS. Vogliamo sentire, visto che c'è questo continuo decremento, si sono perse 1.600.000 copie nel giro di 7 anni, voi che lo compravate, non lo comprate più, voi che avete meno di 30 anni e forse non l'avete mai fatto di comprare un quotidiano, cosa vi spingerebbe a farlo? Emanuela, pronto, buongiorno. Buongiorno, ma io intanto dico che ho 57 anni, quindi tanto giovincella non sono, però sono andata avanti per molti anni a comprare 3 giornali al giorno. Complimenti, 3 giornali al giorno. Ho dovuto smettere da quando sono insegnante, perché non c'ho più soldi. Quindi l'elemento economico è il deterrente ora all'acquisto. Un deterrente è quello. Poi? L'altra cosa è che sono diventati molto meno interessanti, piuttosto noiosi, ripetitivi, dicono tutti la stessa cosa. Mentre prima comprarne 3 dava 3 punti di vista diversi su una notizia, comunque quella era... Adesso, oggi c'è troppa omogeneità. Poi che altro? Cioè, cosa le piacerebbe trovare? Una cosa che mi stimolerebbe moltissimo, sì, sarebbe trovare degli articoli scritti in inglese. Ma soprattutto... E questo perché? Per esercitarsi o li vorrebbe... Questo per esercitare, per indurre i miei alunni, che avrebbero uno stimolo in più. E poi, per esempio, io faccio un esempio banale. Io, sì, ero in Inghilterra quando è caduto l'aereo della Malaysian Airlines, yeah, sì, e ho fatto leggere ai ragazzi il commento che c'è stato, la telefonata che ci sono state precedenti l'incidente. Letti in inglese, i ragazzi hanno capito tutto. La rete italiana non era fedele. Questa è una segnalazione molto importante che non ci ha fatto solo lei. Grazie a questa insegnante veramente scoppiettante, piena di iniziativa. Ora, quando si confronta lo stesso articolo su un avvenimento internazionale scritto in italiano e scritto in inglese, al di là delle traduzioni, ci dicono quello scritto in inglese spesso, e ci si riferisce a testate insomma di grande diffusione, molto cliccate, dal New York Times all'Independent e il Guardian, e è più esaustivo, cioè parte, fa il famoso discorso del ragazzo di 14 anni, parte dall'inizio A, B, C, quindi anche qualcuno che affrontasse quel tema per la prima volta su quell'articolo sarebbe in grado di comprendere. Gianni, buongiorno, pronto? Buongiorno. Gianni, dica. Niente, volevo solo dire che un disincentivo a, sì, comprare il giornale secondo me, è dovuto al fatto, adesso a parte la cronaca chi se ne frega, voglio dire, uno la legge in internet e non c'è problema. Ma dal fatto, guardi, lei assista a una trasmissione in TV dove partecipa un direttore di giornale. Va bene. Finita la trasmissione TV, lei non ha capito da che parte sta questo direttore? Beh, di solito sì. Ecco, perfetto. E questa è la fregatura dei giornali, perché non sono più, sono di parte, sono organi di partito. A quel punto chi è che è interessato ad andare a leggere un'opinione che sa benissimo essere stata distorta? Il direttore che abbiamo ospite oggi, Giorgio Gandola, lei l'ha ascoltato? Certo che l'ho ascoltato. Lei ha capito da che parte sta? Scusi, il direttore di oggi, mi scusi, non è del Corriere della Sera, della Repubblica, del Sole 24 Ore, ha capito cosa voglio dire? Quindi lei dice, secondo lei allora questo direttore, lo sto citando esempio, non lo conosco, quindi l'ho invitato oggi ma non è che abbia niente a che spartire con lui, questo direttore ha un po' colto nel segno, cioè quello che lei richiede, questa sorta di imparzialità, questo mettersi al servizio della notizia, Giorgio Gandola con i suoi interventi incarna un po' quello spirito che lei ha richiesto, Gianni. Di qualche giornale importante, io questo che gli auguro, perché io sono vecchio, mi ricordo che la prima cosa che facevo tornando da scuola era prendere il giornale che aveva comprato mio padre e leggerlo, era tutta un'altra cosa, adesso sono organi di partito, e che gusto c'è? Allora in un giornale ci dovrebbe essere lo spazio, lasci perdere le definizioni che non contano più destra e sinistra. Sì, sì, lei vorrebbe, lei vorrebbe vedere più oggettività e più autorevolezza. Gianni, chiarissimo, grazie, ed è uno dei temi infatti che è tornato ricorrente. Allora a quel punto forse si tornerebbe a comprare anche qualche copia di carta, anche se è chiaro che ci stiamo spostando in un'ottica dal punto di vista digitale che ci porterà sempre più nella direzione dello smartphone, del tablet. Ci informeremo anche attraverso l'evoluzione di questi oggetti. È difficile che la carta possa tornare ad avere quel lustro che aveva nel corso del secolo scorso, senza dubbio, ma eravamo interessati al fatto se fosse solo un cambiamento di costume o in qualche modo anche i contenuti avrebbero potuto un giorno spingere verso l'acquisto coloro che un euro non lo spendono mai. Isabella Bufacchi, in sintesi, abbiamo sentito tantissimi spunti dall'autorevolezza, l'autoreferenzialismo da evitare di troppi giornalisti, e ci vogliono giornalisti anche più giovani che parlino e abbiano un futuro. Questi sono alcuni degli appunti che mi sono segnata. Beh, già il dibattito che c'è stato per me è molto rincuorante, vuol dire che comunque l'informazione, i giornali sono un argomento che appassiona, quindi questo è già importante. Ecco, quello che la conclusione che traggo è che in un quotidiano ci deve essere veramente tutto, perché noi abbiamo sentito varie esigenze. C'è una predominanza negli SMS di richieste di notizie da fuori, cioè siamo anche un po' provinciali, diciamolo. Però ecco, la cosa importante è come tu dai la notizia, cioè c'è la richiesta di opinioni, e l'opinione vuol dire che il lettore vuole anche essere un po' guidato, quindi anche un'opinione forte può essere accettata, come dire, è stato specificato. Infatti, e poi informare, cioè invece c'è chi vuole essere informato. Ecco, secondo me il grande sforzo che deve fare l'informazione è dividere queste due grandi categorie, cioè dove si crea il cortocircuito è quando il lettore pensa che non viene informato perché c'è l'opinione, quando lui invece vuole essere informato. Se invece noi andando avanti, visto che c'è un eccesso di informazione, quell'informazione che diamo, soprattutto sui quotidiani, dove noi dobbiamo dare una gerarchia delle informazioni che è importante, cioè quali sono importanti e quali meno, e poi l'opinione divisa dall'informazione, fare più chiarezza. Ottimo. Sul mondo. E poi internazionalizzazione. Grazie Isabella Bufacchi, grazie a Giorgio Gandola, Arianna Ciccone, a tutti voi che avete partecipato, Barbara Bianchi, una delle autrici di questa trasmissione, che mi guarda dal vetro, Luca Cremonese con lei, Alessandro Casali. Ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia per con la pazienza con cui ha coordinato tutti gli interventi. Da Irene Zerbini, appuntamento a domani mattina con Spunti di Vista. Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità.